yo son si cura que per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicura che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me e non mi scorderà. Sì, io lo so, tutta la vita sempre sola non sarò. Un giorno troverò un po' d'amore anche per me che sono nullità. Nell'immensità. Essere un piccolo pensiero nella più grande immensità del suo cielo.